L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta che registriamo dal Cersaie di Bologna. Come molti programmi anche noi siamo arrivati qui in questa bellissima fiera e abbiamo il piacere di avere con noi Yvonne Orgill, che è Managing Director della European Bathroom Forum. Buongiorno. Good morning. Buongiorno. Good morning. E siamo molto lieti di parlare con lei di risparmio idrico, perché proprio di questo si occupa il Forum Europeo, di cui appunto lei è direttrice. The European Bathroom Forum is a generic platform for the manufacturers. Il forum è una piattaforma per i produttori, venditori e tutti gli stakeholder dell'industria del bagno, per essere insieme con una voce sola, per incoraggiare la Commissione Europea affinché ascolti più seriamente l'industria e le sue preoccupazioni. Da chi è composto questo forum? It is the major manufacturers right across Europe who are selling into Europe, so not necessarily. È composto dai più grandi produttori in Europa o da coloro che vendono in Europa pur producendo altrove. Quindi ci sono produttori, associazioni di produttori e rivenditori di Francia, Italia, Spagna, Gran Bretagna e partecipano al forum collettivamente per esprimersi appunto con una voce sola. Oggi noi in particolare parliamo di consumo di acqua. Approximately in the bathroom anywhere between 150. Nei bagni delle case europee vengono consumate circa 150 fino a 400 litri di acqua al giorno a persona. Ci sono 510 milioni di persone che vivono in Europa e ognuno di loro usa l'acqua in modo diverso. Perché in modo diverso? In the northern parts of Europe we use water to warm our bodies. Perché nel nord dell'Europa utilizziamo l'acqua per riscaldarci, per riscaldare il nostro corpo, mentre nel sud dell'Europa si usa l'acqua per rinfrescare il corpo, visto che fa più caldo. Quindi il nostro uso dell'acqua è diverso. È diverso il tempo che passiamo sotto la doccia. In northern European countries we tend to use baths more than we do in the southern Mediterranean. Nei paesi del nord si fanno più bagni di quanti non se ne facciano al sud dell'Europa. È una questione molto complessa, ma il risultato è lo stesso. Utilizziamo fin troppa acqua e se continuiamo di questo passo consumeremo tutta l'acqua entro il 2050. Non dimentichiamo che la quantità di acqua che abbiamo oggi è la stessa che cadeva sulla testa dei dinosauri, non è aumentata. Particolarmente impressione descritto in questi termini. So let's stop wasting water in terms of leaving taps running when there's no need to. Non mi piace la parola ridurre i consumi d'acqua, ma mi piace dire utilizzare l'acqua in modo consapevole. Quindi basta sprecare l'acqua lasciando aperto il rubinetto quando non serve e basta fare troppe docce se non ci serve farle. Because if you actually talk to a consumer, they would say that they're only using something between 30 to 70. Le persone dovrebbero essere più consapevoli di quanta acqua usano. Se parli con i consumatori, scopri che sono convinti di utilizzare 30, massimo 70 litri al giorno. Ma non è affatto così. Ne usano 5-10 volte tanto. Come forum ci auguriamo che l'industria aiuti i consumatori ad utilizzare l'acqua consapevolmente, in modo che anche le generazioni future possano godere delle meraviglie che abbiamo oggi. Ci sono cose che possiamo fare noi consumatori nelle nostre case, ci sono cose che può fare l'industria e le chiediamo quali. A lot of the manufacturers today are using design, which is why we're here in Cersaie. Cersaie is a great platform for new design. Certo, molti produttori oggi si affidano al design ed è il motivo per il quale siamo qui al Cersaie. Cersaie è una piattaforma meravigliosa per il design, per l'innovazione, per le nuove tecnologie. I produttori stanno realizzando molti strumenti per aiutare i consumatori ad essere meno impattanti sull'ambiente senza ridurre le prestazioni dei prodotti che mettono in commercio. Quindi se vuoi una doccia con un bel getto non dovrai rinunciarci. Un tempo ci volevano circa 30 litri al minuto per una doccia così. Adesso invece con le nuove tecnologie possiamo avere lo stesso risultato con 12-15 litri al massimo. Così si risparmia acqua, si risparmia energia e non si riduce la performance del prodotto. E questo è possibile con le tecnologie che abbiamo? That's right, yes. Tutto questo è possibile con le tecnologie che abbiamo. Mi ha detto prima che non intendete arrivare al punto che questi siano obblighi di legge. The industry is already on that path. They are already leading from the front. L'industria è già sulla strada giusta e sta guidando la rivoluzione. Se guardate ai prodotti che si trovano sul mercato europeo, ci sono già molte etichette che aiutano i consumatori, ma la complessità dei prodotti da bagno è superiore a quella di una lavatrice o di una lavastoviglie dove c'è un'etichetta energetica. I prodotti da bagno vengono assemblati. Per esempio, per una doccia, i componenti principali sono tre. Se non vengono etichettati correttamente e assemblati correttamente, la delusione e l'insoddisfazione del consumatore è massima. Lo stesso per il WC o toilette. C'è il tasto piccolo per un flusso minore e il tasto grande per un flusso maggiore e devono funzionare correttamente affinché ci sia il risultato voluto. Non voglio entrare troppo nel dettaglio per non confondere le persone, però non è una questione di etichetta. L'industria ha già accettato di avere una responsabilità nell'educare i consumatori su quanta acqua e quanta energia usano. And they have already got a labeling scheme that has over 10,000 products registered. L'industria ha già uno schema di etichettatura che comprende 10.000 prodotti ed è condiviso da 132 produttori. Quindi lasciamo che proseguano su questa strada. Sono pronti, sanno di essere quelli che hanno in mano il design, l'innovazione e la tecnologia e preparano il marketing ad investire nella formazione dei consumatori. Mi diceva prima che in tutto questo ragionamento l'industria italiana può dare un grande contributo a livello di design. Yes, Shesai is recognized as the leading design platform for the European bathroom sector. Sì, Shesai è riconosciuto come la piattaforma leader per il design del settore bagno europeo e noi siamo qui quest'anno proprio per inserirci nel tema di questa edizione che è l'acqua e vita, perché senza acqua non c'è vita. Design and fashion come from good. Il design e la moda comprendono la buona progettazione dei manufatti. Essere qui per noi del forum significa seguire l'innovazione, seguire il design e guidare la trasformazione. The European Commission, we work alongside DG Energy and DG Environment, is to ensure that they have the. A Bruxelles lavoriamo in particolare con la direzione ambiente e la direzione energia della Commissione europea per assicurarci che credano seriamente che l'industria può raggiungere un accordo volontario. Per farlo abbiamo bisogno del sostegno completo del settore. We are roughly there. The Commission just needs further. Ci siamo quasi, la Commissione ha bisogno delle ultime prove di fiducia. Abbiamo però bisogno che i produttori, in particolare quelli italiani, ci sostengano fino in fondo. La nostra preoccupazione è, come dicevo, che se arrivasse l'obbligo di un'etichettatura generica per questo settore, i consumatori potrebbero andare incontro a molte delusioni a causa della complessità di questi prodotti da bagno. I thank you very much for being with us today. La ringrazio molto per essere stata con noi oggi. Ricordo, abbiamo parlato con Yvonne Orgil, European Bathroom Forum. Wish you the best for your work. No, maybe next year here in Cersei we can meet again. Magari ci rincontreremo l'anno prossimo qui. Thank you. 4 ottobre 2017. Radio 24 compie 18 anni. I miei 18 anni erano negli anni 80, ascoltavo Madonna e Duran Duran, facevo la maturità, andavo a caccia di lavoretti per guadagnare due denari. Io a 18 anni sognavo una grande radio nazionale da una piccola radio locale. A 18 anni, al liceo, il tema era la cosa più divertente, in compenso per la timidezza era un problema anche lasciare un messaggio in segreteria. Con la radio la scrittura è diventata un lavoro e la lettura un divertimento. Radio 24, da 18 anni, racchiude tutto questo. Una generazione di stimoli per la mente. Grazie a voi che ci avete sostenuto, amato, odiato e soprattutto ascoltato. Raccontateci perché vi piace Radio 24. Scrivetelo a buoncompleanno@radio24.it e 18 di voi potranno assistere dal vivo alle dirette della radio. Radio 24, il sole 24 ore. Nata con carattere. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori dell'altro pianeta. Continuiamo qui dal Cersei e questa puntata e continuiamo a parlare di consumi idrici. Abbiamo due nuovi ospiti in studio con noi che sono Augusto Ciarrocchi, presidente della sezione ceramica di Unindustria Lazio. Benvenuto. Buongiorno. E Mario Zoboli, direzione multibrand di Panaria Group. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Panaria si occupa di ceramiche, ovviamente siamo al Cersei. Certamente. Dunque, continuiamo appunto, dicevo, a parlare di consumi idrici. Poco fa con Yvonne Orgil del European Bathroom Forum. Abbiamo parlato di quanto gli europei consumano l'acqua, ci ha dato dei numeri spaventosi, insomma tutti noi crediamo di fare 3, 4, 5 litri, invece dobbiamo moltiplicare per molto di più. E voi appunto dell'Unindustria Lazio in particolare avete sott'occhio quello che è il comparto dei sanitari e si lavora tanto nella produzione per ridurre il consumo di acqua e quanto per noi come consumatori affinché nelle nostre case noi lo possiamo ridurre, no? E così mi diceva, già abbiamo abbattuto di molto rispetto a qualche anno fa. Certamente, nella nostra tipologia di prodotto abbiamo due filoni di risparmio idrico. Il primo è quello che riguarda la produzione. Nel ciclo produttivo ormai il consumo il riciclo dell'acqua è quasi totale, insomma, nel senso stimiamo intorno al 90% dell'acqua viene riutilizzata nel ciclo produttivo. Invece dal punto di vista dell'utilizzo dei nostri prodotti, dei water, dobbiamo considerare che tutte le aziende del nostro distretto di Civita Castellana, che poi è il distretto più grande, è il distretto più grande d'Italia, perché ormai produce oltre il 70% della produzione nazionale, già stiamo nelle norme europee e siamo andati anche oltre, perché tutte le aziende si sono adeguate a scarichi inferiori ai 6 litri previsti dalla norma. 6 litri è appunto l'attuale norma. Tendere a ridurre questo. Indubbiamente. E quindi siete già pronti? Già pronti. C'è qualche azienda che sta anche molto oltre questo, il limite dei 4 litri e mezzo. Con lo stesso risultato. Indubbiamente. Il risultato deve essere tutti così. È stupefacente che come non abbiamo fatto prima. Cioè, che cosa c'è di nuovo che consente con 3-4 litri di ottenere il risultato che ottenevamo con 10? Ma prima non c'era la sensibilità ecologica, indubbiamente. Questa sensibilità che poi è cresciuta nel corso degli ultimi anni ha fatto sì che le aziende investissero soprattutto nella ricerca per riuscire con pochi litri ad avere la stessa efficienza di scarico. E quindi così siamo arrivati al 2017, che ci siamo. E se la norma dovesse imporvi qualche riduzione, siete già pronti. Non ci mette paura. Non vi mette riduzione. Paura, benissimo. Allora, abbiamo detto i due filoni, consumatori e produzione. Per quello che riguarda invece il mondo della ceramica, anche lì ci sono stati dei grossissimi interventi che riguardano la riduzione dei consumi idrici nella produzione. Certamente, noi parliamo di produzione e possiamo dire che non una goccia d'acqua esce dai nostri impianti, in quanto le acque reflue vengono reimmesse nella loro totalità nel nostro ciclo produttivo, e questo permette un prelievo dall'acquedotto ridotto nell'ordine dell'80%. Abbiamo per esempio stimato che per produrre un metro quadro di ceramica siano necessari 65 litri di acqua, ne preleviamo dall'acquedotto solo 13, perché tutto il restante è proprio l'acqua reflua che invece di gettare reimmettiamo nel nostro ciclo quindi produttivo. Quindi continuate a utilizzare quella finché non è necessario, quindi prelevarla. Esattamente, esattamente così. E questo ovviamente ci aiuta ad avere un impatto ambientale veramente molto basso. Certo, e poi c'è tutto un altro aspetto che riguarda i materiali, no, con cui si fanno le cose, perché noi stiamo cercando di prendere questo taglio della sostenibilità al Cersaie, che è un contesto dove normalmente queste trasmissioni come la mia non ci sono, però una volta all'anno ci vengo, mi fa molto piacere. L'anno scorso, si ricordano tutti i miei colleghi, abbiamo parlato di colle per piastrelle, perché anche lì c'è qualcosa che si può cambiare per rendere inferiore l'impatto che abbiamo sull'ambiente o per la nostra sicurezza, la nostra salute. Sì. E quindi anche voi avete molto da raccontare sul tema della sostenibilità, che è entrato prepotentemente nella vostra, diciamo, immagino, produzione negli ultimi quanti anni, secondo voi? È un tema di cui si parla sempre più prepotentemente. Perché prima arrivavano solo quei bilanci verdi di fine anno, no? Che erano un po' così. Invece adesso ci sono proprio delle iniziative concrete. Certo, noi tra l'altro ne approfitto per dire che abbiamo appena presentato il nostro primo bilancio di sostenibilità, un bilancio di sostenibilità certificato secondo i più moderni standard internazionali, e quindi per farle capire quanto ci teniamo a questo tema. E quindi Dicendo di tempi, una decina d'anni che c'è questo. Ma la sensibilità nasce, non ha una data di nascita, certo, diciamo, però sicuramente è maturata, diciamo, negli ultimi anni. Per quanto riguarda i materiali, ne approfittavo del suo lancio. Mm-hmm. Noi, il nostro gruppo, siamo stati precursori di una tipologia di prodotto oggi affermatissima, e lo abbiamo visto in questo CERSAIA prepotentemente, ovvero le laste sottili e ultrasottili. Nel nostro caso si parla di laste di 3,5 mm e 5,5 mm. E per il fatto di avere lastre più sottili utilizziamo naturalmente meno materie prime, e quindi tra cui l'acqua, utilizziamo meno energia e quindi abbiamo una riduzione dell'impatto ambientale, anche dovuta al discorso logistico, perché avendo l'aste più sottile nell'unità singola di trasporto, e quindi il camion o il container, noi riusciamo a mettere più materiale e quindi a avere meno unità di trasporto, certo, che girano e quindi che calano l'impatto ambientale. Da 3,5 di quanto è stata ridotta? Una ceramica tradizionale è sempre stata tra i 9 mm e i 13-14 mm, per poi arrivare anche per applicazioni molto pesanti ai 20 mm. Però diciamo, una ceramica tradizionale parliamo di 10 mm, quindi parliamo di una riduzione della metà più o meno dello spessore. Beh, quindi un raddoppio delle capacità, certo, di trasporto, certo, insomma, del volume. Molto importante. E questo tipo di ceramica che sono per tutti gli usi, come queste più sottili, dico? Innanzitutto il materiale sottile è stato coniugato, essendo che diventa materiale più leggero nell'unità singola del metro quadro, è stato coniugato a grandi dimensioni. Le grandi dimensioni sono quelle che oggi il mondo dell'architettura, il mondo dell'abitare richiede, in quanto l'assenza di una fuga permette all'occhio di avere una superficie più bella, e tra l'altro avendo meno fughe abbiamo anche meno superfici dove si possono annidare batteri o, certo, da pulire, certamente, e quindi è un po' tutto quello che tutti desiderano, no? Quindi il materiale sottile è stato coniugato anche a lastre di grandi dimensioni. Per quello che riguarda voi invece la produzione, abbiamo fatto un piccolo accenno prima, ma poi siamo andati sugli scarichi. Sì, la nostra... Ricordo gli ascoltatori, Augusto Ciarrocchi. Certo. Anche noi su questo filone ci siamo mossi da ormai parecchi anni, nel senso che il nostro ciclo produttivo prevede il riutilizzo, per esempio, del calore prodotto dai forni di cottura per l'essiccazione dei pezzi. Poi tutto l'aspetto della gestione degli stampi in gesso che servono per realizzare il prodotto. Ormai da molti anni noi nel distretto di Civita Castellana riutilizziamo questi gessi esausti come materia prima secondaria da dare ai cementifici, per esempio. Pertanto non smaltiamo più quello che si smaltiva 10-15 anni fa. Cercate di chiudere il cerchio dell'economia circolare. Cerchiamo di chiudere il cerchio. E poi, come succede anche per le piastrelle, indubbiamente il prodotto ceramico, quando viene, non viene più utilizzato, è un prodotto inerte che va smaltito discariche per inerti e non per strada, per, ecco. Indubbiamente. Beh, questo dovrebbe essere per tutto, ma non solo per il prodotto ceramico, il sanitario. Indubbiamente. Però nel momento in cui ci sono dei prodotti che per smaltirli il costo è molto importante, c'è pure questo filone di chi li smaltisce illegalmente. Insomma, invece, essendo un prodotto che lo smaltimento costa relativamente poco, se non pochissimo, a quel punto c'è questa facilità nel rispettare. Ma mi sa che non lo sanno in tanti che c'è che costa così poco però smaltirlo, perché purtroppo se ne vedono tanti in giro. Invece il costo è talmente basso che forse converrebbe a tutti smaltirlo legalmente. Vabbè, ci proviamo, l'abbiamo ridetto. Io ho sentito parlare di materiali antibatterici, che è anche un altro risparmio da un punto di vista per l'ambiente, no? Perché più il materiale antibatterico, meno detersivi dovrò utilizzare, per fare un esempio banale, come si diceva prima delle fughe. Di che materiali si tratta? Per quanto riguarda... Mario Zoboli, grazie. Sempre per il principio che l'ascoltatore... Grazie. E per quanto riguarda il nostro gruppo, per esempio... l'aspetto dell'antibatterico è un aspetto che abbiamo trattato per completare un po' il discorso di un'idea della qualità dell'abitare, e perché pensiamo che tutti noi compriamo spesso al supermercato lo spazzolino o il dentifricio o il deodorante antibatterico, ma magari forse nessuno aveva pensato che si potessero elaborare lastre ceramiche con un effetto antibatterico H24, quindi sempre attivo, e utilizzando speciali applicazioni che rendono la superficie della lastra ostile alla riproduzione dei batteri, perché il principio batterico nasce proprio con la riproduzione molto veloce di questi batteri. Noi siamo riusciti a creare una linea di prodotti dove appunto con questa speciale applicazione riusciamo ad ottenere questo effetto antibatterico H24, quindi sempre attivo, per cui abbiamo proprio lavorato in questi termini per completare un discorso di, anche in questo caso, di qualità proprio dell'abitare. Ecco. Ma io poco fa, parlando appunto con Ivo Norgil, ho sentito che gli italiani sono stati caricati di una forte, come si dice, ci sono forti aspettative nei confronti delle industrie italiane, perché hanno queste capacità di design, di inventare, di pensare a cose nuove, per cui contano molto su di voi, perché promuoviate questi aspetti della sostenibilità e del risparmio idrico nel vostro campo. Ve la sentite un po' addosso questa cosa? Ma noi, per quanto ci riguarda, partiamo per la nostra strada e la percorriamo. Indubbiamente il settore dei sanitari in Italia è un settore evoluto rispetto a molti paesi, sia europei che mondiali. Cioè, quello che noi diamo alla nostra clientela non è la stessa cosa dei produttori stranieri, però è un valore aggiunto che noi vogliamo mettere sul nostro prodotto. Per esempio l'antibatterico, molte aziende produttrici italiane già stanno ragionando e attuando questo discorso, insomma. Nel senso, non ci rivolgiamo indietro per vedere cosa fanno i concorrenti. Noi andiamo per la nostra strada, poi i concorrenti, se sono bravi, ci seguiranno, altrimenti vedete voi che prenderemo. Certo. E voi, per quel che vi riguarda, l'aspetto di ricerca, sviluppo, continuare, cioè c'è sempre qualche traguardo da raggiungere? Certo, no, per quanto riguarda l'aspetto ambientale, direi che proprio il nostro tentativo è stato molto sfidante, perché intraprendere questo bilancio di sostenibilità nel modo in cui l'abbiamo intrapreso è stato veramente sfidante. Anche all'interno dell'azienda ci siamo dati obiettivi, è proprio stato un bel traguardo che abbiamo raggiunto. Qualcosa che vi ha fatto soffrire, cos'è stato? Certamente abbiamo misurato tanti numeri, tanti fattori, dove abbiamo cercato di darci degli obiettivi a livello di... Sì, partiamo dai risultati economici, dagli aspetti ambientali, dagli aspetti sociali e quindi sui nostri dipendenti. Abbiamo veramente lavorato a 360 gradi, si è generato un bel clima all'interno della nostra impresa, e veramente è stato un impegno che ci siamo presi con i nostri stakeholder, quindi con tutti i nostri partner. Per quanto riguarda la parte commerciale, anche abbiamo cercato di comunicarla anche alla nostra clientela. Quindi c'è anche una funzione, come dire, di motivazionale quasi. Certo. Ecco. Allora, noi abbiamo, come dice, terminato il tempo che avevamo a nostra disposizione. Io vorrei ringraziare ancora Augusto Ciarrocchi, presidente della sezione ceramica di Unindustria Lazio, e Mario Zoboli, direzione multibrand di Panaria Group. Grazie, allora buon lavoro, buona fiera, buon cessaggio. Grazie mille, grazie a lei. Alla prossima. Alla prossima, arrivederci.